8 e 2 minuti, quindi puntuali per il Breakfast Club odierno, che già è partito 30 secondi in anticipo, quindi un pochettino rispetto al solito in anticipo anche il nostro voltiamo pagina. Ribadisco il 333-180-9494, avrete sorprese e tutti i tempi per quanto riguarda le pubblicazioni editoriali. È il mercoledì magico di Radio Città Fujiko, già la formazione è completa con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi. È il 14 febbraio, diamo il buongiorno a Silvia. Buongiorno. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo portato certamente non due storie d'amore, no. Sarebbe stato troppo banale, se vogliamo, non ci appartiene questo percorso, anzi tutt'altro, per cui inizieremo con una playlist ricordando il video al quale è allegata la playlist stessa sul link www.radiocittafujiko.it. Abbiamo portato un classico e una sorpresa, ecco, diciamo così, in partenza di playlist letteraria. Tra l'altro da Adelphi stanno arrivando tante ripubblicazioni o pubblicazioni in prima ristampa per questo grandissimo autore, e a questo punto lascio a te la parola, Silvia. Sì, dunque io ho portato un romanzo di Georges Simenon che Adelphi sta ritraducendo, e qui mi piace dire che la traduttrice molto brava di questi nuovi Simenon, nuovi tra virgolette, certo, nuove edizioni di Simenon, è una nostra concittadina, quindi è una signora di Bologna, e devo dire che si chiama Simona Mambrini e che sta facendo delle traduzioni veramente eccellenti. Bene, questo ci fa oltre che onore e ci porta un valore aggiunto nella lettura di un grandissimo Simenon, che ricordiamo per personaggi che hanno avuto un successo diffuso in una cultura popolare di altissimo livello, tradotto anche sul piccolo schermo, credo, non so se sul grande schermo, ma per ma scherzi? Quanto riguarda, serio, non lo so, non sto scherzando. Sono serio, sono ignorante, allora, ho una prof apposta. Allora te lo dico io, cioè per esempio il primo Maigret cinematografico fu il grandissimo Jean Gabin. Ho capito, bene, lo segno, così eviterò di fare queste deficienze, ecco, nel senso di mancanze. Il primo è stato Jean Gabin e l'ultimo è stato Gérard Depardieu. Ah, a grandissimo attore, un po', diciamo, un po' sovrappeso, ha degli esuberi. Ecco, non solo di peso. E non solo di peso, no, ha degli esuberi, esuberante. Comunque ecco, il suo Maigret fu molto particolare, ma molto, molto malinconico, molto triste. Vabbè. Io ricordo Gino Cervi. Già, Gino Cervi lo ricordiamo tutti. Ecco. Allora, invece però qui stanno ritraducendo non Maigret al momento, ma dei romanzi che, sì, che non hanno nulla a che vedere con Maigret. Sapete che Simenon ha scritto anche tantissimo e i suoi romanzi sono belli, sono veramente belli. Allora, questo è si intitola Delitto impunito, esce ovviamente da Adelphi, che ha in mano tutto Simenon, ed è una storia molto particolare perché già dal titolo uno potrebbe pensare che fosse un giallo. In realtà c'è un delitto, ovviamente, ma non è un romanzo giallo affatto. Non dobbiamo scoprire chi è l'omicida, il colpevole. Non ci sono poliziotti, non ci sono detective. È una storia molto psicologica, un romanzo molto psicologico. Si svolge a Liegi, la prima parte, la seconda addirittura negli Stati Uniti, e in una Liegi freddissima d'inverno, sempre piena di neve, dove incontriamo un ragazzo che sta studiando all'università con una borsa di studio, viene da una famiglia poverissima e per vivere a Liegi vive in una pensione dove si può permettere soltanto la camera senza riscaldamento perché, ecco, non ha soldi per pagare il riscaldamento, e dove mangia soltanto con si nutre di un uovo, però la padrona della pensione, una vedova, mossa in qualche modo anche a compassione se vogliamo, lui è un tipo chiuso, introverso, antipatichino direi, ma ci credo, andare avanti a un uovo al giorno, divento antipatico anch'io. ma è bravissimo, ha ottimi risultati, sta studiando fisica, ha ottimi risultati all'università. Bene, la padrona, mossa con passione, gli permette di passare la giornata nella sala comune che è riscaldata e dove può appunto anche studiare, eccetera. Quindi lui si è creato il suo nido in questo posto e gli va bene così. La padrona ha una figlia, lui non dico che si è innamorato della figlia, però in qualche modo anche questa presenza femminile, sua coetanea, gli rende ancora più familiare questo posto. Nei suoi sogni immagina un giorno di riuscire a unirsi a lei, anche se sa che è abbastanza improbabile. Questa gli sorride quando lo vede, non si scambiano neanche due parole, però vabbè. E nei suoi sogni. Però insomma lui è contento così, è già da, non so se è il secondo o il terzo anno che vive in questa pensione, in qualche modo la ritiene casa sua. Un bel giorno, anzi un brutto giorno, arriva un altro pensionante, che è un ragazzo della sua età, solo che è un ragazzo ricco, che si può permettere la suite che era rimasta riscaldata. Ah beh, tutto il resto è riscaldato tranne la camera del nostro povero protagonista. La suite che era rimasta sfitta per un sacco di tempo, arriva questo ragazzo, non solo si permette la suite, ma a differenza di tutti gli altri pensionanti chiede anche la pensione completa. Oh, altro quindi, che uomo. Quindi tutti gli altri mangiano con il loro, mangiano tutti assieme, no? Però ognuno porta il suo panino, insomma, quello che si cucina personalmente. Invece lui ha la padrona di casa che cucina per lui, e lui paga. Ecco, è chiaro che da questo punto si crea una sorta di antagonismo tra il povero e il ricco. Il ragazzo povero vede sempre di più il ricco come il suo rivale, quello che gli sta portando via le attenzioni, per esempio, della padrona e anche della figlia. Quello che con la figlia forse concretizza, mentre lui la stava solo a guardare da lontano. Sognava, già. E quindi questa antipatia, diciamo, si trasforma sempre più in odio e potresti immaginare come va a finire. Se non che c'è il tutto è raccontato seguendo la psicologia di questo personaggio, di questo giovane povero, diciamo, si vede come cresce questo odio e perché. E tutto questo è veramente la cosa magnifica di questo libro, è che è esattamente un riflesso della freddezza, del gelo e dell'oppressione, diciamo, dell'ambiente esterno, di questo mondo così, così assolutamente privo di calore. In qualche modo il paesaggio esterno, questa Liegi che è del tutto inospitale, come la racconta Simenon, chiaramente corrisponde ai sentimenti di freddezza, di gelo proprio del personaggio principale. La seconda parte c'è un grosso salto temporale e nella seconda parte ci troviamo negli Stati Uniti, al confine col Messico. Quindi in un posto assolutamente caldo, luminoso laddove Liegi era buia persino in pieno giorno, e qui quello che succede nella seconda parte, dove attualmente ritroviamo il nostro giovane, che ormai non è più giovane, anzi è un uomo sulla cinquantina direi, che è era magrissimo nella prima parte, nella seconda si è gonfiato, è opulento, è diventato quasi obeso. Perché? Perché ha mangiato così poco all'inizio che si sfoga mangiando. Mi ricorda qualcuno. Praticamente comunque, il suo unico divertimento è mangiare, non fa altro che smangiucchiare, che fa il portiere in un albergo, sta alla reception in un albergo, dove appunto ha cassetti pieni di caramelle e cioccolatini che continua a smangiucchiare. E qui in questo junk food. In questo albergo succede qualche cosa che naturalmente non posso raccontare, ma che ha a che vedere con la prima parte del romanzo. E quello che è interessante è come noi entriamo nella psiche di questo personaggio in una maniera che ci può veramente, adesso sto per fare un paragone molto, molto tosto, diciamo, però non l'ho questo libro mi è stato prestato, devo dire, da una persona che ne era rimasta entusiasta, da una mia amica che ne è rimasta entusiasta, e che mi ha detto: sembra un libro russo, sembra Dostoevskij. In effetti è vero, il personaggio principale ricorda moltissimo il Raskolnikov di Dostoevskij. E c'è... faremo attinenze col mio libro. Bene, c'è un'aria, una eco di Delitto e Castigo in questo romanzo. Non a caso si chiama Delitto Impunito. Anche dell'uomo superfluo da Pushkin, con quello che arriva ricco e certo. Spacciato. Ecco. È un romanzo molto molto particolare che chiaramente ci rivela un lato di Simenon che, se da un lato chiaramente ci fa ripensare a Maigret, perché ripeto, c'è il discorso del delitto, fin dal titolo se vogliamo, c'è il discorso del crimine commesso o che si crede di avere commesso, ma soprattutto invece quello che è il quid in più è il modo come noi entriamo nella mente di questo personaggio e vediamo tutto il suo rovello, sia per essere appunto un diseredato, se vogliamo, sia poi per quello che vuole commettere o che ha commesso. E questo veramente ci fa venire in mente, il Delitto e Castigo, il Raskolnikov di Delitto e Castigo, e la Liegi di Simenon deve molto alle ambientazioni di Delitto e Castigo, sì, a cominciare da San Pietroburgo, veramente grigia, fredda, grigia, la prospettiva che portava delle simmetrie opache, e questa sì. Camera non riscaldata del protagonista, veramente c'è moltissimo, sembra un romanzo russo, diciamo. E di romanzi russi vi parlerò io tra poco, ovviamente, e non ci siamo assolutamente messi d'accordo. Mi hai giustamente, non è un rimprovero, ma ci mancherebbe, però mi hai bruciato alcuni argomenti tipo l'Onegin di Pushkin con l'uomo superfluo, un eroe del nostro tempo di Lermontov, lo troveremo qui. Qui senza dubbio il primo che ti viene in mente è Delitto e Castigo. Sì. Dostoevskij. Sì, e oltre alla trama, quindi c'è anche un viaggio nella coscienza introspettivo e anche di percorso, perché ovviamente si scoprirà come mai da Liegi al Messico. Chiaro che. Non lo voglio sapere, però sono collegati, ovviamente. Sì, sono collegati perché lui a un certo punto deve lasciare Liegi. Lui non ha. Oramai ha perso i contatti con la sua famiglia e tutto. E noi lo ritroviamo in Messico, non sappiamo nemmeno noi molto bene come è arrivato a ritrovarsi fin lì, però tant'è, c'è stata una fuga che l'ha portato per l'Europa e poi l'ha portato ad approdare lì dove ha messo in qualche modo radici, dove si è fatta anche una famiglia, ha sposato una ragazza messicana, quindi è andato lontano. È andato lontano. No, però adesso che fai riferimento alla playlist. La playlist l'ho scelta stavolta cercando le atmosfere di questo film, di questo libro. Però film è una parola giusta, perché è un libro Potrebbe. Molto visuale, veramente. Tu te la vedi questa Liegi, insomma, è stata Liegi, però te la immagini. Ecco, la prima era Gioco Forza, non potevo fare a meno di scegliere questa perché è la famosissima sigla del Maigret di Cervi, no? Certo, lontano. No, un giorno dopo l'altro. Ah, non è quella, aspetta. È la allora numero 6. Vado a vedere, la numero 6, Numero 6 del disco 1 è lontano. No, un giorno allora... dopo l'altro, adesso te la vado a ricercare. Allora sarà... è la 7 del disco 2, Silvia, ah, su, dai. Beh, per fortuna. Però ci stava anche lontano lontano. No, non ci stava perché per la distanza chilometrica tra Liegi e il Messico, dai su, voglio dire, in questo caso, mentre invece sì, un giorno dopo l'altro, esatto, che era la sigla anche di Maigret. La proponiamo, torniamo in diretta, ricordando che a breve ci sarà anche il quiz sui 103.1 per il Voltiamo Pagina 333 180 9494. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato. Ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri. La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. E la speranza ormai è un'abitudine. E la speranza ormai è un'abitudine. Che poeta, mamma mia, che brano fantastico. E la chiusura con questo fischio alla Alessandro Alessandroni da Morricone è qualcosa che aggiunge veramente all'emozione di questa narrazione musicale, qualcosa di importante. Grande Luigi Tenco, grazie per questa selezione musicale. Ricordiamo, Silvia, il titolo: Adelphi è la casa editrice, l'autore Georges Simenon, e il titolo? Delitto impunito. Delitto impunito è il libro consigliato, consigliatissimo aggiungerei, ha trovato anche in me una grande curiosità, attinenze anche col lavoro che presenterò, ma intanto diciamo che il libro non è di Silvia ma è di una nostra carissima amica che salutiamo e dobbiamo restituirlo a lei. Sì. Al massimo diamo un colpo di telefono, lo vuoi regalare? Ma credo giustamente di no. Ma credo di no. Intanto, e poi allora, guarda, diamo la sorpresa, è anche un po' rovinatino. Quindi è perché è vissuto. Sì, comunque la sorpresa, tra l'altro, non dico che cos'è, ma è sempre un libro francese, ma molto più recente, di un autore che ha vinto il Goncourt nel 2021. Prestigiosissimo. Quindi premio. È anche quello un bel premio e prestigioso. Potete arrivare, ci sto arrivando anch'io, a chi potrebbe essere, perché è un premio che seguo con grande attenzione. Dopodiché, appunto, con la sorpresa che potete trovare in libreria Ubic già da oggi pomeriggio, a breve, come ho detto, avrete il quiz. Io continuo a chiedere alcune precisazioni sul lavoro portato da Silvia. Hai parlato di una traduzione molto precisa e preparata, eh? Sì, veramente devo dire una bella traduzione. Sai quando tu leggi un libro e ti sembra che sia stato scritto in italiano? Cioè, non avverti esatto. Non avverti quello stridio della parola adattata, ecco. Non è una, si dice in gergo, si dice traduzione addomesticata. Cioè, adotterò questo termine, mi piace, mi fa sentire preparato. No, io l'ho imparato dai linguisti, cioè quando la traduzione è stata più che adattata all'italiano. Per esempio, quando ci sono delle persone che parlano in un dialetto, in un romanzo, e in traduzione li fanno parlare in napoletano o in barese, ecco. E questo è un adattamento, questo addomesticato. È un addomesticamento. Sì. Qui non ci sono addomesticamenti, è una, veramente una bella traduzione. E ho visto proprio l'altro giorno, ero in libreria e ho visto che è uscito in questi giorni un altro Simenon. Questo è uscito escono veramente di frequente, sì, è sempre tradotto da lei e da pubblicati a Delphi. C'era un paginone, adesso non mi ricordo più se era sul Carlino Bologna o sul Corriere Bologna, la settimana scorsa, su queste nuove traduzioni di Simenon, che è un'intervista con la traduttrice. Il giornale, che non ricordo più se era Carlino o Corriere, proprio strombazzava, molto contento, si onorava del fatto che sia bolognese. Non interessa a nessuno, ma io ho avuto il libro in prestito con la calda raccomandazione di leggerlo, perché la nostra comune amica Elena, che me l'ha prestato, è amica della traduttrice e lei mi diceva sempre è una traduttrice bravissima, e in effetti devo dire che e questa testimonianza, sì, invece interessa. E come, sono le 8:23, attinenze con il libro che porterò nella seconda parte del Voltiamo Pagina, la collaborazione costante con Libreria Ubic di Virnerio 27, ovviamente a Bologna, vi porterà a ritirare la sorpresa che Silvia ha messo a disposizione. Restiamo in Francia, c'è un premio Goncourt, la data è l'anno 2021, e quindi io direi che ci siamo per enunciare il quesito odierno, cara Silvia. Sì, dunque abbiamo parlato del Maigret italiano, che tutti ricordiamo, quello di Gino Cervi. Gino Cervi era bolognese anche lui, sì, come la traduttrice. È vero. Bene, io voglio sapere in quale strada di Bologna è nato Gino Cervi. Oh, bella questa! Vediamo quanto siete preparati sulla storia del cinema, non solo sulle curiosità, se vogliamo, relative alla nostra città. In quale via, strada è nato Gino Cervi a Bologna? C'è una bella targa, certo, dove è nato. Okay. Sulla sua casa natale c'è una bella targa. A tra poco, 333-180-9494. Jarvis, leggo Jarvis, bene? Sì, Jarvis Cocker. Non è il figlio di Joe, no. No, no, lo so. È un inglese. E la canzone è scelta perché c'ha il titolo adatto, in linea con il nostro libro, cioè I Will Kill Again. Ucciderò ancora. Ucciderò ancora. Welcome in the night time. Drink a half bottle of wine. Couple of records. Look at naked girls from time to time. Dies of boredom at the very least. Allora, stanno scrivendo in tantissime, tantissimi. Giustamente eri avvantaggiata perché lavoravi in quella via, per cui più volte recandoti al lavoro avrei trovato questa targa. Via Cartoleria, esattamente. Sì. La risposta intanto sì. La diamo. Comincio, Andrea, il nostro super campione, ma non arriva primo. Poi direi via Cartoleria, saluti Michele, e si è anche puntato con il cognome C. Dopodiché troviamo anche Sergio che scrive una poesia: sentirvi battibeccare su cose da niente e ricomporre le armonie perdute. Wow. Senti, grazie Sergio, battibeccheremo sempre. Esatto, perché siamo poeti dentro. In via Cartoleria dice: ma non concorro. Ok, va bene, ne prendiamo atto. Attenzione a questa, che mi pare sia Alessandra, adesso vado a vedere, anzi no, Paola, questo veramente, via Cartoleria 3, quartiere Santo Stefano. Wow. Manca, guarda, se metti il cap, aspetta che procediamo con, perché sto andando a ritroso, arriva un altro messaggio. Andrea Utensili, Pelé, guarda, dai. Grazie per la partecipazione. E poi la nostra vincitrice, Michela, che ha scritto immediatamente per questa risposta via Cartoleria 3. Grazie Michela, ma grazie anche a chi ha partecipato in maniera così copiosa a questo quiz per il libro a sorpresa di Silvia. Chissà se Michela avrà studiato al Dipartimento di Lingue, che è al numero 5. Is the sweetest sound I've ever heard, and baby's coming back to me. Bello Jarvis, allora, che bello. Gradevole, è molto gradevole, sì. Jarvis Cocker era il leader, credo, di un gruppo che si chiamava Pulp, vero? Notaio conferma. Notaio conferma. Allora, altro aneddoto che non interessa a nessuno, ma ancora, ma di cui io vado super fiera. Io sono a un concerto di Rufus Wainwright a Parigi e io sono stata seduta tutta la serata accanto a Jarvis Cocker. Ecco. E mi sono accorta che, diciamo, ma questo lo conosco, ma chi è? Ma chi è? E soltanto quando ero già uscita, Stefano mi ha detto: ma quello era Jarvis Cocker. Yeah, I remember. Buongiorno, buongiorno cara e cari in redazione, un saluto anche ad Andrea Utensili. E Sabina, sì, noi giriamo i saluti assolutamente al mitico Pelé. Anch'io lo saluto, Certo, tutti. Stefano, tu lo saluti? Sì, sta sì, facendo sì. Ciao con la mano. Niente da fare, non riusciamo a estorcere una parola, no. Allora andiamo in pubblicità e rientriamo tra pochissimo con il Voltiamo Pagina. Non cambiate frequenza, potete partecipare anche nella seconda parte al quiz che vi porterà il libro imminente in presentazione. A tra poco. How can things so quickly change? Well, it's strange but true, I'm telling you truthfully. See, the day is coming back to me. My friend, it's what you told me, and can you see what's inside of me? Many times we've been out drinking, many times we've shared our thoughts, Did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. È un tutti i tempi, a me lui piace tantissimo, corrisponde all'anagrafe, correggimi Silvia, Will Oldham e Bonnie Prince Billy in questo disco I See Darkness, che possiedo anch'io questa ballad. Ho visto Bonnie Prince Billy e qui non è un allegrone, invece conosciuto dopo il concerto fuori dal palco, è una persona estremamente gioviale. Ecco, queste sono esperienze da concerto che non finiscono qui, perché Michela, contenta della vittoria, scrive: io parlai con Jarvis e Candida, la ragazza alle tastiere al covo in preconcerto a Bologna. Wow. Scrivete le vostre esperienze live. And that I see a darkness. And that I see. Bravo Bonnie Prince Billy, complimenti. Scelta tua? Il disco è di Stefano, okay. L'abbiamo scelto insieme. Perché questo disco si presta molto, perché è celebre. Se leggi i titoli e anche guardi anche la copertina. È tutto appunto su tenebre e similari, e ci sta bene con l'atmosfera di Liegi di Simenon. E certo, allora la playlist è sempre attinente, come ben sapete, per quanto riguarda il Voltiamo Pagina, grazie a Silvia, grazie anche a Stefano, che mette a disposizione un patrimonio discografico dal quale ruberei alcune cose, certamente sì. Intanto io propongo un lavoro che mi riporta indietro nel tempo, già la mia curiosità per lo slavismo, per la grande letteratura russa, nella mia sisifia ignoranza, intorno ai 30 anni decisi, ok, inizio ad approfondire e leggere totalmente da autodidatta Dostoevsky, Tolstoj, Gogol, Turgenev, Lermontov, Pushkin, e ho iniziato questo viaggio che mi ha portato poi in seguito ad aprire orizzonti verso altre letterature mitteleuropee del Novecento, tipo Thomas Bernhard, di cui vi ho parlato la scorsa puntata. Questi autori da riscoprire ci portano ulteriormente, ma in maniera molto importante. Lui è un tutti i tempi, non lo conoscevo, sto parlando di Alexander Ivanovich Erzen. Erzen non è il suo cognome, perché è figlio illegittimo di un ricco proprietario terriero, e quindi non dà il cognome a questo suo primogenito. Porterà il cognome Erzen in quanto la mamma era una serva della gleba. Sapete, ai tempi di Nicola I c'era ancora questo stato allucinante di ordine sociale, e di origine tedesca, quindi dà il cognome Erzen, che è derivato da Erz in tedesco cuore, per cui ha voluto dare a questo primogenito un nome assolutamente romantico. Nasce a Mosca nel 1812 Alexander Ivanovich Erzen, e i suoi percorsi, nonostante l'essere benestante, sono qualcosa di molto sensibile, che ci porterà in un viaggio fino ai giorni nostri, che darà spunti di riflessione per lettrici e lettori più attenti, assolutamente importanti. Allora, approfondirei non partendo dalla trama, ma partendo dal personaggio, perché dico ci sono attinenze, lo vedremo nella trama. Per quanto riguarda il personaggio, l'autore Erzen ha una fortuna, però, essendo benestante, ha due precettori per la sua educazione. Uno sarà assolutamente progressista come il secondo, uno di origine russa e l'altro di origine francese. Quello di origine russa porterà letture tipo Il pugnale e l'aria della libertà di Pushkin, l'altro gli racconta la rivoluzione e come Luigi XVI viene definito traditore della patria, l'altro è di origine francese, quindi ha indubbiamente due precettori che lo selezionano e lo formano in maniera forte, con un'attenzione per i deboli, per le classi disagiate, per le condizioni che sotto il tempo degli zar vivevano contadini, vivevano le classi meno agiate, e di questo subito sarà attenzione in ogni sua narrazione. Conosce un poeta, conosce Oregon, che è un poeta anche lui con intenzioni rivoluzionarie, che lo porterà a farlo giurare di sacrificare persino la sua vita in nome di una libertà. Fu arrestato nel 1834, intanto che pubblica riviste, pubblica fogli di protesta intensa contro l'ordinamento di governo assolutista dello zar, e questo lo porterà in diverse difficoltà, come ho già detto in precedenza. Intanto che riesce a scontare la sua pena, inizierà a viaggiare. Questi viaggi lo porteranno a conoscere Marx, e questo sarà un innamoramento totale. Anche Scusa, conoscere di persona proprio? Sì, conosce di persona Marx. Lui è uno scrittore amatissimo tra l'altro da Lenin, è stato riportato con grande attenzione dal padre della rivoluzione, si porta in contatto con i movimenti socialisti più importanti, e quello che riporta nella scrittura di questo lavoro, che è semplicemente Di chi è la colpa, il titolo è questo, ha una trama di cui a breve vi parlerò, certo semplice, ma che ha visione che può essere compresa e percepita anche per quanto riguardano i giorni nostri. Quello che vediamo in questo lavoro è abbastanza immediato, è una storia ovviamente ambientata nella Russia di Nicola I, un giovane precettore, Krucifersky, si innamora della sorellastra del suo allievo, e fin qui insomma è abbastanza comprensibile, di nome Lyubonka, fino che la sposa, la serenità del loro matrimonio, e qui mi rifaccio a quello che è stato presentato da Silvia, viene interrotta dalla comparsa di Vladimir Beltov, colto, sì, intelligente, brillante e anche di animo nobile, ma se vogliamo Beltov è un uomo superfluo, e per quello che in precedenza ho citato l'Onegin di Pushkin, tra lui e Lyubenska si scatena una passione naturale, inevitabile conseguenza di una profonda affinità spirituale destinata, poi ovviamente seguirà la lettura da Di chi è la colpa, a portare i tre ad eventi e narrazioni certo controverse, se vogliamo anche violente e assolutamente intense, in un triangolo che ci porta a rileggere dentro di noi in maniera più estesa a determinate situazioni nel contemporaneo. E mi spiego. Erzen ha un'idea di socialismo che ha una visione originale, ha un'attenzione romantica, idealista, vicino anche alle libertà individuali, è una visione che va oltre all'utopia, che ha un'attenzione, come vi ho detto, assolutamente trascinata e trasportata con naturalezza dalla forza dei personaggi che ha conosciuto in precedenza, fino ad arrivare a Karl Marx. Altra citazione, Dostoevskij e Turgenev lo definiranno uno dei più grandi intellettuali mai esistiti in Russia, e questi ovviamente sono testimonianze che danno una certa importanza. Lui è stato uno dei primi ideatori del populismo, e quello che ho pensato, adesso il populismo, tra l'altro se leggiamo nell'etimo e anche nell'approfondimento tutto ciò che è populismo, no? Adesso è completamente un'accezione negativa, se vogliamo, e questa porta a diverse riflessioni, no? Il populismo, il sovranismo, ma soffermiamoci sul populismo. Mentre ai tempi l'aspetto populista era quanto mai importante, si opponeva a quello che veniva tradotto e descritto da Pushkin con l'uomo superfluo, che è più invece l'antieroe protagonista in Di chi è la colpa. E quello che si oppone al populismo di allora è la figura, quello disinteressato, meno freghista, attento al gioco d'azzardo, senza valori, pronto ad approfittarsi degli altri, colleziona storie d'amore approfittando anche di giovani donne. Insomma, se vogliamo, ci sono più attenenze al populista che vediamo ai giorni nostri. Quindi c'è un ribaltamento di pensiero, di corrente, di descrizione nel sociale che ci porta a pensare: ma cos'è successo? Qualcosa deve essere andato storto in tutto questo periodo. Ecco, a questi percorsi sicuramente di riflessione con Alexander Ivanovich Herzen, Di chi è la colpa? Guarda un po' qual è il titolo di questo lavoro, che è tuttora una domanda che ci chiediamo e ci facciamo noi stessi. Populista una volta, il populista, parola quanto mai bella. Ci pensiamo adesso a un'accezione diversa, ma come inteso il populista adesso? È intesa come era l'uomo superfluo allora. Non so se questa mia capriola è stata abbastanza chiara, ho fatto del mio meglio per spiegarla. Lascio la parola anche a Silvia, così. No, io volevo sapere una cosa, molto banale. Quante pagine ha? È molto grosso? No, lo vedo da qui. Non 350 sì. pagine. Sì, quindi, sì, non è il classico Tommaso Russo. No, sì, grazie Silvia che mi hai portato a questo approfondimento, a questa attenzione, perché tutto quello che ho detto, insomma, può arrivare a essere, sapete, già come ho detto, mi sto formando su questi lavori anche per cultura personale, da autodidatta, non avendo studiato. Quindi uno ha l'immagine del Tommaso, come è stato definito da Silvia, Russo, con un certo... Ai fratelli Karamazov... capolavoro assoluto, tutti i tempi. Mille pagine, tempi, però. Sì, sono mille pagine. No, non sto proponendo un lavoro di tal fattura. Però, insomma, queste 350 pagine con una curatela di Mirko Gallenzi della collana Oscar Cult Mondadori, che finalmente non fa più l'orecchie. Non so se i nostri ascoltatori se lo ricordano, faceva un'orecchietta sulla copertina, ne mancava un triangolo. Brutto, la ripetizione della copertina sotto. Sì. E insomma, niente, allora, populismo, bella parola nell'etimo, lo dico anche in lettura delle prime pagine, adesso completamente travolta nell'altro significato, se vogliamo, è quel significato che appartiene più all'uomo superfluo dell'epoca di metà Ottocento, questa critica che ha portato alla prima rivoluzione del 1905 nella Russia, che poi sarà Unione Sovietica. Herzen amatissimo da Lenin, Herzen amatissimo da Dostoevskij e dal grande Turgenev, insomma, ci porta a tutte le cose che ho appena descritto a farci anche a noi stessi la domanda: di chi è la colpa? Scusate lo sproloquio e la... Comunque, oggi, senza volerlo, abbiamo fatto due romanzi che sembra che siano proprio un pendant: Delitto impunito e Di chi è la colpa. Persino i titoli sono grazie, sono legati. Ma allora rivoltiamo pagine, i prof sono due. Infatti populista è una parola che ha visto ribaltati il proprio significato. Scopritelo dal lavoro che ho appena letto. Un villato, un tutti i tempi, se l'Ottocento da riscoprire è con Alexander Ivanovich Herzen dalla volta scorsa, il Novecento, poi nella Mitteleuropa, linguaggio tedesco, scrittore in lingua tedesca, e Thomas Bernhard. Veramente due libri, uno più bello dell'altro. Beh, io voglio sapere, per avere questo è per voi, Questo è per voi. Parliamo di russi. È una domanda un pochino così, non so, poi insomma, per me, però ci tengo. Teatro, andiamo in scena, andiamo con Anton Chekhov, grandissimo Anton Chekhov, andiamo in scena e lui ci ha parlato di un giardino. Questo giardino che alberi aveva, qual era il frutto che portava questo giardino? Lo chiedo. Ma com'è difficile! È arrivato subito Andrea, questa volta lo consegniamo ad Andrea, lo merita, guarda. Stavo però pensando. Lo leggi Andrea, questo capolavoro lo leggi, Stavo lo pensando, leggi Andrea, mi raccomando, ciliegi, il giardino dei ciliegi, capolavoro assoluto, dimmi. Stavo pensando se qualcuno ti avesse risposto Finzi Contini. Ma non sono frutti. Non si sa mai. Tout brille, tout scintille, mais rien ne se consume, c'est comme ça, c'est ainsi. Tous en vie, tout un prix. Ha detto quasi timoroso. Sì, sì, mi ispira. No, accidenti, che libro. Anche Dino l'ha scritto col GL, è un errore mio questo, poi dopo si è corretto, anzi ha sottolineato, hai visto come sono stato bravo, ha messo GL, capito? Chiudiamo il nostro voltiamo pagina, vi ringraziamo per l'attenzione, andiamo a portare anche in video le nostre presentazioni alla rubrica letteraria odierna e vi invitiamo ovviamente alla prossima puntata. Com'è andata la serata con Scappasta? Bene, bene, c'era un sacco di gente, okay. È stato piacevole, la prossima è l'11 marzo. Bene. Una cosa volevo aggiungere. Quello che state ascoltando in sottofondo è mio sec. Giusto, scusa. Con la canzone Brühl, dedicata al nostro ascoltatore Paolo, che sappiamo ama moltissimo la musica francese. Buon ascolto Paolo, buon ascolto a tutte e a tutti voi. Domani facciamo il 700 bolognese, Museo d'Abbia Bargellini e... niente, hai parlato di Gino Cervi. Io domani farò una citazione al cardinale Lambertini. Stupendo. Ok, sì. Dai. Buon ascolto, buon mercoledì. Buona giornata con l'ascolto di Radio Città Fujiko da Silvia Albertazzi e William Piana. Ciao. Ciao.